l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei e benvenuti all'altra Europa, 6 minuti dopo le 12 in diretta da Radio 24 come ogni settimana per raccontare questa Europa. Oggi grande protagonista, avete appena sentito le parole di Renzi, di Sidi anche con Bruxelles, ma l'Europa è anche la Turchia, quello che sta accadendo in queste ore. L'Europa è l'attualità, è l'economia che viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, altre storie, cerchiamo di parlare dell'Europa, delle possibilità e delle opportunità. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: chiocciola Federico Taddia sui social network Facebook e Twitter, oppure euronetplus.eu, che è il sito del programma Euronet Plus, appunto, al quale apparteniamo, un network di tante radio europee, tante lingue diverse, per raccontare la stessa Europa, Europa che oggi vi raccontiamo anche a modo nostro, cioè con la musica live di una cantautrice europea, mi piace definirla così, Kiss and Drive, in studio, Radio 24, l'altra Europa. Any time I know you could be there. Any time I know you should go where I suppose you would go to. Do you know what this causes, though? Do you know what this causes, hun? Though you know, since you're so, even if you never wanted to do so. My mood changed, can see straight. My tongue grips, my lipstick, my ship sinks, but it's alright. My mood changed, can see straight. My tongue grips, my lipstick, my ship sinks, bloop, bloop, bloop, it's alright. Hope you don't mind. My ship sinks, bloop, bloop, bloop, it's alright. It's alright. Alright. Kiss and Drive, Elisabetta Spada, nata a Roma, cantautrice, vive a Bruxelles. Ciao Elisabetta, ben ritrovata. Ciao. Che bella la tua voce, insomma, piena di gioia, perché comunque anche con testi importanti ti piace cantarla questa, sì, questa gioia. Elisabetta, subito Bruxelles, da dove, beh, adesso è in Italia anche per un progetto importante teatrale insieme a Beppe Severini, di cui poi parleremo, però vorremmo andare subito a Bruxelles con te. Cos'è Bruxelles oggi? Ma è una città un po' presidiata, cioè io abito in un quartiere davanti a degli stagni, ero in Italia quando hanno iniziato il coprifuoco, insomma subito dopo gli attentati a Parigi, e quando sono tornata ci sono camionette della polizia a ogni piazza, e sono andata a vedere alcuni concerti, a sentire dei concerti nel Botanique, che è un ex giardino botanico trasformato in sala concerti, e adesso non ti fanno più portare gli zainetti dentro, ci sono i militari davanti alle sale, insomma un po' strano, uno va a sentire una musica pop, non so, e hai il militarozzo con il mitra davanti. Poi sono gentilissimi questi militari, però insomma sì, ci sono. Strano, la gente è un po' stufa a Bruxelles, devo dire, gli amici che sono ancora lì. Io ormai è un mese che sono in Italia per il tour con Severgnini, però se leggo i post degli amici che basta, sono un po' stufi di questo allarmismo. C'è anche gente che non esce più di casa, prende solo la macchina, non prende più la metropolitana perché hanno guardato troppo la televisione, sono convinti che c'è un pericolo tremendo, e delle persone un po' più impressionabili hanno cambiato stile di vita. Quindi insomma sì, che è quello che i terroristi vogliono, ahimè, però appunto la risposta deve essere bene un'altra. E torneremo con Elisabetta, con il suo tour teatrale in Italia, poi parleremo anche del suo tour musicale, invece oltre 100 tappe a Bruxelles un annetto fa è terminato, e ancora musica, però continuiamo a mettere la cultura al centro di questa Europa, e lo facciamo andando di fatto a inaugurare l'anno di una delle due capitali europee della cultura 2016. La prima è San Sebastian in Spagna, che andremo ad approfondire poi la prossima settimana. Oggi invece andiamo in Polonia, in una cittadina bellissima che con la sua pronuncia non ci facilita, è Wrocław, ma sicuramente lui la saprà pronunciare molto meglio. Diamo il benvenuto a Marcello Murgia, giornalista e blogger di base proprio nella cittadina polacca. Ciao Marcello. Ciao Federico, ciao, buongiorno a tutti. Non so se partire dalla città o partire da te, perché sono due storie che si intrecciano, però entrambe molto belle. Allora, tu gestisci un blog che è un italiano a wrocław.blogspot.it, ma poi anche curi le pagine ufficiali della città in italiano, che è... Esatto, curo la sezione italiana del servizio di informazione cittadino, wrocław.pl/it, anche se in realtà questa è più un'attività da passatempo, perché poi come lavoratore dipendente full time mi occupo di tutt'altro. E cosa ci fai lì? Come ci sei arrivato? Dunque, la mia relazione con Wrocław dura ormai ininterrottamente da quasi 7 anni. Vivo felicemente quindi nella città più calda in Polonia, perché è questa la reputazione infatti della città di Wrocław, anche se oggi comunque la città è tutta ricoperta da un bellissimo candido manto di neve, però siccome ieri sono iniziati i festeggiamenti per la più grande festa culturale la storia di Wrocław, immagino che questa febbre culturale sia sufficiente per farla sciogliere la neve. Adesso entreremo nella festa, però è una città non tanto conosciuta in Italia, ma molto bella, molto particolare. È detta anche la piccola Italia o l'Italia polacca. Concordo, vero? Uh-huh. Concordo, no? Infatti Varsavia e Cracovia per forza di cose attivano, no? E catalizzano l'interesse, l'attenzione dei turisti. Eppure proprio in questi ultimi anni, grazie anche alle varie manifestazioni sportive, culturali, artistiche che hanno visto Wrocław protagonista, la città, quindi il capoluogo della Bassa Slesia, Wrocław, sta tornando alla ribalta. Nel 2012 è stata una delle città che ha ospitato i campionati di calcio gli europei, quindi del 2012, sì. Quest'anno capitale europea della cultura insieme alla spagnola San Sebastian, l'anno prossimo ospiterà anche i World Games, cioè quindi le discipline sportive non olimpiche. E poi, come hai accennato tu un attimo fa, si è guadagnata anche il tag di Little Italy, no? Nel 2013 vari giornali, testate italiane si sono interessati a questo singolare fenomeno, no, di una cospicua minoranza italiana. Non ci sono statistiche ufficiali, però sicuramente intorno ai 1000-1500 connazionali hanno scelto Wrocław, hanno trovato qui, hanno deciso quindi di raccogliere la sfida, hanno trovato qui un lavoro e spero che siano altrettanto felici come lo sono io di vivere qui. Città universitaria, città del pluralismo religioso, città dell'innovazione, della ricostruzione, città che conosceremo meglio fra un attimo, subito dopo le informazioni, per chi sta viaggiando. L'altra Europa. On the 17th of January, at 4 o'clock in the afternoon, Wrocław is going to explode. It's the official opening of the European Capital of Culture, and we invite you, come and join us on the streets in Renick Square and discover a city you've never seen before. Odbierz swoją mapę wydarzeń weekendu otwarcia. Mapę będziesz mógł znaleźć w 15 infopunktach zlokalizowanych... Era il direttore artistico di Wrocław che parlava, presentava la cerimonia di apertura. Marcello, cosa sta accadendo in queste ore nella città? Perché siamo nel cuore di questa inaugurazione. Giustissimo. Dunque, ci sono ben 100 eventi che hanno già cominciato ad animare il weekend, già a partire da ieri, quindi squisite mostre artistiche, esposizioni sui più favolosi progetti di architettura contemporanea, quindi il cosiddetto premio Mies van der Rohe, progetti finalisti di progetti architettonici che hanno attraversato gli ultimi 25 anni dell'architettura europea, spettacoli che stanno animando gli spazi pubblici. Ad esempio, già ieri e oggi c'è la cosiddetta Vespa Suodova, cioè l'isola del Malto, un'isola fiammeggiante perché vi hanno luogo vari spettacoli pirotecnici, concerti poi che trasformano la città in un unico grande forum della musica. Non solo però cultura artistica o letteraria, ad esempio c'è anche la parte della cultura culinaria e gastronomica, in particolare la cultura gastronomica di strada con i food truck che hanno già invaso la cosiddetta piazza del Nove Targ, no? Che è una delle piazze principali del centro storico. Poi, siccome infatti sono due le capitali europee della cultura designate per quest'anno, nella Galleria d'Arte Beauvoir, già ieri c'è stato il vernissage della mostra Sonoridades, dedicata all'illustre scultore basco Eduardo Cillida. Poi il Museo Nazionale, il Museo Narodowe, che si sta trasformando nel Museo dei Sogni. Che bellissima. Quindi, questa immagine del Museo dei Sogni, insomma, è una di quelle che più mi ha proprio così mi ha colpito. Beh, esatto, insomma, no? Sarà un anno intenso. Marciano, intanto grazie per averci fatto assaporare un po' il gusto proprio di questa festa che sta iniziando e che continuerà nei prossimi 12 esatto, mesi. E domani, e poi soprattutto domani, quindi domenica 17, il punto culminante con i quattro spiriti che tu hai menzionato poco fa, no? Proprio lo spirito dell'innovazione, del pluralismo religioso, della ricostruzione e dell'alluvione, no? Quindi questo dialogo tra passato e presente. Ci saremo ancora, ritroveremo qui all'Altra Europa sicuramente Marcello per continuare a seguire gli eventi più significativi di questo anno europeo della cultura. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie mille Federico. Ciao. Buon weekend. Europostit. Lavorare al Consiglio d'Europa. Ti piacerebbe fare una nuova esperienza lavorativa a Strasburgo? Il Consiglio d'Europa ha aperto le selezioni per l'assunzione di un collaboratore nella divisione di Project Management. L'offerta è rivolta a cittadini europei laureati in diverse discipline, che abbiano ottima padronanza dell'inglese e del francese e abbiano maturato almeno 2 anni d'esperienza all'interno di organizzazioni impegnate in settori simili a quelli pertinenti al Consiglio d'Europa. Il candidato svolgerà mansioni amministrative di segretariato e avrà il compito di revisionare testi e documenti per controllare la correttezza grammaticale e di traduzione. La scadenza per partecipare alle selezioni è il 18 gennaio 2016. Per informazioni, cerca nella sezione offerte di lavoro del sito del Consiglio coe-recruitment.com. Questi sono i nostri post-it che potete ritrovare sul sito radio24.it. Se invece volete conoscere meglio Elisabetta Spada, il sito è kissanddrive.com o, che è molto più comodo e molto più facile, andare a teatro in questi giorni, oggi e domani ancora qui a Milano al Teatro Franco Parenti con lo spettacolo La vita è un viaggio insieme a Beppe Severnini e a Marta Isabella Rizzi, poi Parma, Argenta, Mestre, Roma, Bergamo, Firenze, Lecco, La Spezia, Ivrea, Londra. Londra è andata anche fuori Italia, giustamente. E conosco molto bene Beppe, conosco anche te, e La vita è un viaggio potrebbe essere anche il sottotitolo di questo programma. Sì. Cosa raccontate? Cosa fate respirare? Facciamo respirare un po' d'Europa, anche se siamo tutti bloccati all'aeroporto di Lisbona. Uh-huh. Perché hanno cancellato i voli per uno sciopero. Io sto lì con la mia chitarrina, me la canto e me la suono e osservo due bizzarri personaggi. Una ragazza arrabbiata che protesta e scalpita, che è Marta Isabella Rizzi, che è un po' a un punto cruciale della vita, deve raggiungere il suo fidanzato surfista, barista in Brasile. E un anzianotto, un preanziano, Beppe Severnini, che pontifica, che è tutto contento forse di avere un po' di imprevisti nella sua vita piatta, no scherzo. E quindi questo Severnini, questo personaggio, cerca di non portare sulla cattiva strada questa ragazza, ma aiutarla un po' a riflettere alle scelte della sua vita, a capire dove se è veramente la scelta giusta seguire un fidanzato in una vita che non hai scelto. E non so, e piano piano durante la notte, non vi posso dire come finisce, esattamente, però insomma forse la convince, forse no, comunque parla di Italia, di Europa, del mondo, delle scelte, le generazioni. Ti riconosci tu in questo viaggio? Sì, sì, sì, mi riconosco, come ha detto la mia timida ragazza, lei è un passo indietro, cioè la protagonista sa già quello che le piace fare nella vita, deve solo scegliere se continuare a farlo o se abbandonare questo suo sogno. Cioè, forse un'altra pièce andrebbe fatta su come trovare il proprio sogno, che per molte persone è la difficoltà, capire veramente qual è il loro talento e... vabbè, ma su per quello c'è la psicanalisi, ecco. Anche, oppure c'è questo grande palco appunto che si chiama Europa. Tutto questo tu lo racconti anche in musica, dai, è il momento di ascoltare insieme un altro pezzo. Cosa ci proponi? Vi propongo la canzone che ho scritto un po' a quattro mani, il testo insieme a Beppe Severgnini, che parla della pièce, insomma, che è l'introduzione, canta storie alla vita un viaggio. Vai. Vieni e dove vai, ma come non lo sai, un volo di carta nel vento, vento sei, ma andrai dove vorrai, Londra, Roma, Berlino, Miami, a volte quando lasci ottieni, senza partire non potrai sapere quali cose hanno preso valore. Vieni e dove vai, ma come non lo sai, se giri in tondo e poi ti fermi qui, chissà chi incontrerai, andrai dove dovrai, non farti mai rubare l'orizzonte, non credere se ti dicon che non c'è più niente da sperare. Capirai da sola quando arriva il tempo giusto per partire o tornare. Da dove vieni? Deciderai mai. Kiss and Drive, con questo bel pezzo, La vita è un viaggio, e noi continuiamo a viaggiare direzione Brindisi. The most beautiful things in life are the most simple, like the smell of fresh olives or the taste of sweet tomatoes. These are the things I want to discover when I travel. Diamo il benvenuto ad Emma Taveri di Destination Makers, società che gestisce il progetto Brindisi is my destination, progetto che ha come punto focale la creazione di destinazioni felici. Già questo è un manifesto. Ciao Emma, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Vorrei chiederti qual è la definizione di destinazione felice, quando è che è una destinazione felice? È abbastanza difficile da definire. Per noi una destinazione felice è un posto da cui i giovani non desiderano andare via, è un posto dove ci si può immaginare il proprio futuro e dove si può fare ciò che si ama, appunto, senza dover sempre pensare di andare all'estero, andare fuori, e può essere anche l'Italia, insomma. Noi ci stiamo provando qui a Brindisi. Allora, progetto che è stato approvato dalla Commissione Europea sulla valorizzazione del turismo sostenibile, e riuscendo a entrare nelle selezioni del bando COSME, che è sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo. Esatto. Qual è il cuore del vostro progetto? Qual è stata l'intuizione, secondo te, vincente fino ad ora? Allora, come tu dicevi prima, noi come Destination Maker, la nostra società gestisce il progetto Green Cities My Destination, che è un progetto pilota sulla creazione di una destinazione felice a partire da un territorio difficile, che è appunto Brindisi. Noi, come tanti giovani, insomma, abbiamo fatto diverse esperienze all'estero, siamo andati via dopo 10-12 anni di vita all'estero, anche di lavoro per importanti aziende del settore turistico, ci siamo detti: ok, vogliamo continuare qui o possiamo pensare di tornare in Italia e investire la nostra esperienza nel nostro territorio, cercando anche di aggregare altri giovani che come noi hanno voglia di cambiare le cose. E quindi siamo tornati a Brindisi e abbiamo messo la nostra esperienza al servizio della comunità. Con Brindisi My Destination qui abbiamo avviato diversi processi, abbiamo cominciato a collaborare con le amministrazioni pubbliche, abbiamo coinvolto istituti scolastici, giovani professionisti che come noi insomma volevano dare il proprio contributo. Abbiamo realizzato dei format che praticamente sono in particolare un format di... è incentrato sulla formazione, sì, e sulla motivazione sia dei giovani ma anche e soprattutto degli operatori locali che lavorano nel turismo. Quindi noi con questo format che si chiama Experience Lab invitiamo esperti internazionali che vengono qui a Brindisi per condividere la loro conoscenza con il territorio, insegnando materie come il design dell'esperienza turistica, la valorizzazione del territorio e tematiche appunto molto importanti per far crescere una non destinazione, perché noi la consideriamo ancora una non destinazione, certo, una potenziale destinazione. Un'ultima domanda: è più facile convincere che quel territorio è una destinazione felice chi ci vive in quel territorio o chi deve arrivarci, deve sceglierlo proprio come per esempio meta turistica quel territorio? Forse è più difficile convincere chi ci vive che può, sì, essere un territorio difficile, e questo penso che sia un problema anche un po' in generale degli italiani, che sono un popolo molto entusiasta ma che a volte ha difficoltà a credere realmente nella propria nazione, nel proprio territorio, in questo caso nella propria destinazione. Mm-hmm. La difficoltà maggiore che abbiamo riscontrato è stata quella di convincere appunto i locali che può essere un territorio felice come tante altre mete, e appunto nel momento in cui si diventa una persona felice, un territorio felice, degli operatori felici, si possono attrarre più facilmente anche nuove forme di turismo. www.brindisimydestination.com è il sito ufficiale del progetto, oppure destinationlinetamakers.com per conoscere le attività della società. Grazie davvero Emma Taveri, in bocca grazie al lupo, mille, buon lavoro. Grazie mille, ciao, ciao, ciao. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Vulcanus in Giappone. Sei uno studente universitario e sei alla ricerca di nuove esperienze in Estremo Oriente? Il Centro EU Giappone per la cooperazione industriale promuove il programma Vulcanus, che consente agli studenti universitari europei di trascorrere un anno in Giappone come tirocinanti presso diverse aziende del paese. La borsa di studio è composta da una settimana di seminario sul Giappone, 4 mesi di corso intensivo di lingua e 8 mesi di stage in un'azienda del posto. I candidati dovranno essere cittadini dell'Unione Europea, iscritti a facoltà tecniche e scientifiche ed essere almeno al quarto anno di studi. È previsto un rimborso per le spese di viaggio e di alloggio. Le candidature dovranno essere caricate entro il 20 gennaio 2016 sul sito eu-japan.eu. L'altra Europa. So I packed my things and ran, far away from all the trouble. I accosted with my 2 hands. Alone we traveled on, with nothing but a shadow. We fled far away. Hold your horses now. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità, anche delle visioni, dei sogni che poi passano attraverso decisioni forti, decisioni che poi hanno anche impatto sulla quotidianità. E, beh, il progetto di cui stiamo andando a parlare un po' ci accompagna proprio in quella direzione. Vi do qualche numero: 70 milioni di abitanti suddivisi in 48 regioni, diverse le nazioni coinvolte, ben 7. Questa è un po' la cornice della macro regione alpina, il nome EUSALP. L'idea è proprio quella di creare questa regione geograficamente situata al centro del continente europeo, con opportunità e problematiche comuni, quindi con un potenziale di sinergie elevatissimo. Di tutto ciò ne parliamo con Ugo Parolo, sottosegretario alla presidenza della regione Lombardia con delega per la macro regione alpina. Buongiorno Parolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, si fa fatica, no? C'è l'Europa, chi la vuole allargare, chi la vuole stringere, un'Europa sempre più aperta, un'Europa sempre più chiusa, l'Europa degli stati e l'Europa delle regioni. C'è bisogno di una nuova regione? No, non c'è bisogno di una nuova regione. Infatti la macro regione alpina non è un nuovo ente, non è una nuova istituzione, dobbiamo dirlo subito. Uno dei punti basilari su cui si basano le strategie macro regionali, anche perché questa non è la prima, anche se è la prima, diciamo, per come si è costituita, poi vediamo di capire il perché, ma comunque dicevo, uno dei punti basilari su cui si fonda le strategie macro regionali europee è proprio quella di non prevedere nuove istituzioni, quindi tranquillizziamo subito i cittadini, non ci sarà un altro carrozzone, non ci saranno nuove leggi, quindi non andiamo a complicare la vita ai cittadini, e purtroppo, ahimè, non ci saranno neanche fondi aggiuntivi. Allora cos'è la strategia macro regionale alpina? Lo dice il nome, è una strategia, è un modo di lavorare insieme riconosciuto però dal Parlamento europeo, dal Consiglio d'Europa. Non è un modo di lavorare insieme che nasce solo dalla buona volontà, ma è un modo di lavorare insieme istituzionalizzato. Dicevo, ci sono altre due strategie macro regionali già esistenti, anzi anche una terza, che è quella adriatico-ionica appena nata, più il Danubio e il Baltico, ma questa EUSALP è veramente una rivoluzione. È una grande linea che taglia l'Europa, sono le Alpi, il grande collante. Ci può fare qualche esempio di strategie comuni che potrebbero essere davvero impattanti nel senso positivo? La strategia si basa su un piano di azione che è nato nel 2014 a seguito di una grandissima consultazione pubblica che si è svolta in tutti i 7 stati che lei ricordava e nelle 48 regioni. Da giugno a ottobre 2014 e infine l'1 e il 2 dicembre a Milano, noi come Regione Lombardia, che peraltro abbiamo avuto l'onore e l'onere di coordinare le regioni italiane dentro la strategia macroregionale lungo il percorso di formazione, l'1 e il 2 dicembre, dicevo, si è svolta la conferenza finale degli stakeholders, c'erano oltre 1200 persone presenti nel palazzo di Regione Lombardia in quei due giorni, con la presenza di capi di Stato, rappresentanti di tutte le regioni, i Länder che compongono e i cantoni che compongono la macroregione alpina. Questo quaderno, sostanzialmente, questo piano di azione si basa su 3 pilastri che sono, diciamo, i punti cardine su cui si baserà la strategia. Pilastro 1, che si fonda sostanzialmente sulla ricerca e l'innovazione, pilastro 2 sull'energia e il pilastro 3 sulla pilastro 2 sulla connettività e l'accessibilità delle Alpi, e il pilastro 3 su energia e ambiente. Dentro questi pilastri poi ci sono 9 gruppi di azione che declinano le varie azioni che bisogna svolgere, e qui naturalmente si va dal, appunto, come dicevo, per esempio, dalla promozione, dalla ricerca, la cultura, la tutela del patrimonio culturale, la valorizzazione delle risorse naturali, la connettività ecologica, il miglioramento dei trasporti, della connettività all'interno delle Alpi, insomma lo spettro è molto ampio delle azioni che si andranno a svolgere. Questi gruppi di azione verranno costituiti proprio il 25 e il 26 a Brno, in Slovenia, quando verrà lanciata a tutti gli effetti la strategia macroregionale. Quindi lì il lancio poi, appunto, si entrerà anche parti un po' più operative. Avevo sentito parlare anche della dieta alpina, era una buttade. Beh sì, forse sì. Vero? Mi aveva, no, fatto, questa... mi aveva fatto sorridere un po' la dieta alpina come risposta nordica, la dieta mediterranea. No, no, beh, forse poi ci può stare tutto, però insomma diciamo che stiamo parlando di cose un po' più serie che dovrebbero veramente consentire ai popoli alpini di lavorare insieme. Qui la vera scommessa, diciamo, le scommesse sono due. Da un lato il fatto che questa iniziativa nasce dalle regioni, sì, è la prima volta, quindi infatti nel comitato paritetico e nella governance ci saranno a pari livello sia i sette stati che le sette regioni che a turno rappresentano i singoli stati dentro la strategia macro-regionale. Sì. Quindi stati e regioni per la prima volta con le regioni che sono allo stesso livello degli stati dentro una, diciamo, un governo di una strategia macro-regionale. È veramente il primo tentativo di fare la cosiddetta Europa delle regioni, quella dei popoli. E il secondo, secondo me, vero elemento innovativo strategico è che si è scelto di fare una strategia delle Alpi, macro-regionale alpina, quindi le Alpi sono il cuore, come diceva lei, come ricordava lei, ma qui dentro ci sono le regioni con loro, diciamo, con loro, diciamo, intero contenuto amministrativo. Voglio dire, ci sono la Baviera, c'è la Baviera, c'è la Lombardia, due grandissime regioni, ciascuna con milioni di abitanti e con grandi metropoli e grandi pianure, e la scommessa è quella di far diventare un'opportunità la convivenza tra la montagna e le aree altamente antropizzate, affinché l'una non abbia da perdere dall'altra e viceversa. Sarebbe stato un po' riduttivo fare una strategia macro-regionale alpina limitandola meramente ai soli territori alpini, certo, e alle province. Certo, togliendo un grande peso rappresentativo. Lei ricordava i 70 milioni di abitanti, voglio ricordare i 3.000 miliardi di PIL prodotto da quest'area. Quindi sicuramente se sapremo cogliere questa opportunità potremmo avere... non domani, non dopodomani, non dobbiamo illudere i cittadini, ma nel medio-lungo termine sicuramente un'azione, potremmo avere un'azione veramente significativa nei confronti dell'Europa e anche degli stati, aggiungo, perché qui le regioni contano anche nei confronti dei rispettivi stati e quindi insieme possono mutuare dei vantaggi. Grazie davvero Parolo, buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Europostit. Sve in Palestina. Ti piacerebbe fare un'esperienza di volontariato internazionale sui temi dei diritti umani e dei media in Palestina? RCS, l'Associazione per la Cultura e lo Sviluppo di ARCI, promuove il progetto di servizio volontario europeo Youth Mediocracy Makers ed è alla ricerca di 4 giovani candidati pronti a trascorrere 3 mesi a Gerusalemme presso l'organizzazione palestinese Youth Development Department. I volontari saranno impegnati sui temi di diritti umani, cittadinanza attiva, nuovi media, giornalismo, libertà d'espressione e dialogo interculturale. Vitto e alloggio in loco saranno interamente rimborsati, così come parte dei biglietti aerei. Candidature entro il 23 gennaio sul sito arcsculturesolidali.org. I nostri aeropostit, vi ricordo ancora il sito radio24.it, da dove poterli riascoltare lì, nelle nostre pagine, nelle pagine dell'Altra Europa, potete trovare anche i contenuti speciali e poi scaricare la puntata in podcast. Kiss and Drive, Elisabetta Spada con me oggi in studio. Elisabetta, da quanto vivi a Bruxelles? 10 anni. È più facile essere artista in Italia o più facile essere artista a Bruxelles? Ma direi a Bruxelles, ma non posso fare il paragone, perché no, io prima lavoravo al Parlamento Europeo, quindi non è che sono un artista di lunga carriera, ecco, ho fatto tutt'altro, ho studiato psicologia... Ho lavorato nelle risorse umane prima e poi nella comunicazione al Parlamento Europeo per 5 anni e poi ho avuto questa illuminazione sulla via di Damasco, ho capito che volevo provare a fare la musica perché mi veniva un po' meglio che fare la funzionaria e quindi in realtà per me sono solo 4-5 anni che faccio l'artista, però secondo me vuol dire qualcosa che mi sono data il permesso di fare questa cosa, perché in Belgio gli artisti non sono visti come un'altra casta, quelli super famosi e dei paria quelli invece che hanno un po' più di difficoltà a emergere. C'è un'accettazione, un lavoro come un altro, c'è anche uno statuto d'artista per gli intermittenti dello spettacolo, un po' come in Francia, quindi è una specie di sussidio di disoccupazione per i periodi in cui uno non lavora, che io sono riuscita a ottenere grazie a tutti i concerti che ho fatto i primi anni, perché ho vinto un concorso di gruppi emergenti, così che poi mi si è lanciata la carriera grazie a questa possibilità, sempre offerta dal governo belga, francofono nel mio caso, e penso che sia un po' più facile in Belgio, anche per uscire dal Belgio e andare a suonare negli altri paesi. Parlavo con un ragazzo di Pordenone, un booker italiano, che dice che in tutti i paesi, quasi tutti gli altri paesi europei, c'è un organismo dello Stato, del Ministero della Cultura, che si occupa di esportare gli artisti del paese all'estero, i danesi. Dice che, per esempio, questo organo in Islanda funziona benissimo, quindi tutti i gruppi emergenti giovani islandesi vanno, sono spinti, pagati per andare nei festival degli altri paesi, nelle convention di musica, per farsi conoscere, e in Italia questo organo non esiste. Insomma, c'è un investimento nei giovani talenti per accompagnarli anche. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo, Sister ci hai preparato, vero? Sì, esatto, che dedico a tutte le sisters vere e immaginate che ho. You're my sister, you're my sister, you're my sister, though you still don't know that we'll all fall, that we'll all fall, that we'll all fall your good sides inside and outside, the dark sides you hide, and we chose to choose them for good. And this is how love goes. You're my sister, you're my sister, you're my sister, though you still don't know that the groom loves, that the groom loves, that the groom loves all your dark sides inside and outside. The bride will glow. Have to be thankful, but be remember that you never have to be thankful, but be loved. Remember that you never have to be thankful, but be loved instead. But be loved instead. But be loved and drive, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa, un'altra storia dove l'Italia sa stupire l'Europa. L'altra Europa. A long time ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea, along came a man by the name of Charlie Mott. And he invented a wonderful drink and he made it out of hop. He bought a bean and that gorilla soaked an orange king. Sono stati invitati dalla Commissione Europea a Bruxelles, tra i 20 innovatori sociali, un progetto che ha al centro la birra, lo avete probabilmente intuito dalla canzone che abbiamo messo su, e i protagonisti sono alcuni carcerati del carcere Regina Coeli di Roma. Il motore di questo viaggio, visto che oggi parliamo di viaggio, è un fisioterapista, si chiama Paolo Strano ed è qua con noi. Ciao Paolo. Ciao, grazie mille per essere qui, buongiorno a tutti. No, grazie a te. Vale la pena in tutti i sensi, vale la pena raccontare questa storia, vale la pena dedicare qualche ora di volontariato, questa però è la tua di storie, e vale la pena che anche il nome di una birra che vi porterà appunto nel cuore d'Europa. Ci racconti in sintesi che qual è questa storia? Sì, naturalmente. Allora, questo progetto nasce un paio d'anni fa da una nostra, mia e degli altri soci fondatori, esperienza professionale appunto nel carcere romano di Regina Coeli. Siamo andati lì a curare i detenuti, noi facciamo tutt'altro, appunto facciamo i fisioterapisti, abbiamo constatato tutta una serie di problematiche veramente, veramente importanti. Poi era il 2011, l'anno in cui c'era il maggior sovrannumero nelle carceri italiane. Adesso la situazione è leggermente migliorata, ma è sempre davvero, davvero molto critica, e abbiamo deciso di fare qualcosa per dargli un'opportunità, perché poi in carcere abbiamo visto veramente tante storie di tutti i tipi, ma una delle cose che veramente ti salta all'occhio è che ci sono tante potenzialità, tante intelligenze, tanti valori che vengono purtroppo veramente mortificati. Mm-hmm. E quindi abbiamo deciso di fare un qualcosa soprattutto per cercare di non farli rientrare. Infatti la nostra mission è quella di rompere il circolo delle recidive, che è un problema enorme per tutti quanti. In Italia, fra chi non gode di misure alternative, la recidiva è addirittura 1%, cioè 7 detenuti su 10 rientrano in carcere. Questo ha dei costi sociali enormi in termini di sicurezza. Beh, assolutamente. Di costi sociali, costi umani. Enormi. E quindi abbiamo deciso di fare qualche cosa in questo senso. La birra artigianale, devo dire che è stata veramente un'intuizione brillante, perché è un prodotto ottimo. Dall'altro, noi siamo in Italia, stiamo diventando davvero bravi, anche se è un fenomeno recente, è un fenomeno in grandissima espansione. Siamo passati dal 2012, nel 2012 c'erano più o meno 300 birrifici in Italia, adesso sono circa 1000, e abbiamo veramente a livello italiano dei birrai fantastici, e oltretutto noi abbiamo avuto la fortuna di avere come collaboratori, ne cito solo alcuni, Agostino Arioli, Walter Loverier, Michele Menchini, veramente dei birrai fantastici che collaborano al progetto, e ci hanno permesso tra l'altro in poco tempo di uscire con un prodotto davvero ottimo, che sta facendo appunto parlare infatti, di noi. C'è l'aspetto sociale, però c'è anche un prodotto di elevata qualità. E c'è l'Europa che si è accorta di voi. Sì, grazie al Politecnico di Milano, che è più o meno un anno che ci segue in questo percorso, in particolare il Dipartimento di Design. Noi abbiamo già vinto una tranche italiana di un contest europeo che si chiama Transition, che è quello appunto che ci porterà adesso a Bruxelles a raccontare la nostra storia, dove veramente speriamo finalmente di diventare una buona pratica italiana e non un cattivo esempio che venga replicata all'estero. Abbiamo già vinto anche un contest nazionale molto importante, che è Coltiva l'idea giusta, promosso da UBI Banca e Make a Change, e anche questo ci ha dato un altro grosso vantaggio, perché ci hanno aiutato a confezionare un'idea assolutamente replicabile, perché poi ovviamente il problema della recidiva e della detenzione del reato è un problema che non abbiamo solo noi. A noi costa, devo dire, molto. Pensate che un detenuto in Italia in questo momento costa circa 3.700 euro al mese per ognuno, per tenerlo in quelle condizioni appunto che poi in realtà facilitano la recidiva, violando l'articolo 27 della Costituzione, che dovrebbe prevedere un trattamento della pena appunto rieducativo e non solo afflittivo. È un problema, dicevo, che hanno un pochino tutti, quindi e oltretutto la birra artigianale funziona un po' dappertutto, è un prodotto che si vende, è un prodotto che piace, ed è un prodotto appunto in grado di sostenere il progetto. Questo era per noi veramente fondamentale, trovare un sistema che sostenesse da solo il progetto. L'abbiamo trovato, funziona, abbiamo anche adesso oltretutto studiato uno sviluppo che prevede una micromescita molto diffusa del nostro prodotto, in maniera tale da diffondere l'idea, diffondere il progetto, perché noi chiaramente andiamo a raccontare quello che facciamo, a sensibilizzare le persone sul progetto e quindi poi a sostenerlo. Valelapena.it è il sito ufficiale. Grazie davvero a Paolo Strano e a tutto grazie il team, a tutti i ragazzi e le ragazze che lavorano a questo progetto. In bocca al lupo anche per il vostro viaggio a Bruxelles. Ciao e grazie. Grazie, crepi. Allora, noi andiamo verso la chiusura di questa puntata. Grazie a tutta la squadra, Miriam Lucchetti, Silvia Righini, che hanno collaborato alla scrittura del programma, Claudia Schiattone in assistenza, Roberto, di cui non mi ricordo il cognome, Frisani, scusami, lo sai che io quei cognomi proprio ormai vi metto tutti insieme, di solito faccio ben di peggio. E ringrazio soprattutto Elisabetta Spada, Kiss and Drive, che oggi ci ha accompagnato con la sua musica live. Ricordiamo il sito, per l'appunto kissanddrive.com, e poi lo spettacolo insieme a Beppe Severnini, oggi e domani al Parenti di Milano, con La vita è un viaggio, e poi questo viaggio continua con tantissime tappe in giro per l'Italia. Con cosa ci saluti, Elisabetta? Vi saluto con una canzone che dice tutto di me, che si chiama She's Full of Things. E non parlo solo dello gnocco fritto che ho mangiato ieri, no, scherzo. Voilà, She's Full of Things. Spero di vedere tanta gente numerosa a Roma, che è la mia città d'origine. Venite, venite. E mettete like sulla mia pagina Facebook, vabbè, che non lo fa nessuno. No, vabbè, facciamoci delle domande a questo punto. Vai, grazie Elisabetta. She's so full of things, she's so full of things, she doesn't even know where to put them. Stuff those, stuff this. Down where the silence kingdom will bury them down, down where the silence kingdom will bury them down. The morning of a sight of a voice will try to make her fail. You will not break down so easily, 'cause she got too many things to keep inside. She's so full of things, she's so full of things, the things she's full of could make her explode. Then pieces of her life soul will drop over the dance floor, will drop over the dance, and then people will stare at her and scream more, more, more, more, more. She got pieces, she got pieces. Cantautrice italiana a Bruxelles, anche questa è l'altra Europa. A sabato prossimo.